Cialtroni nello spazio. Bentornati alla 25esima puntata. No, ci ha creduto davvero che era la 25esima puntata. Comunque, vabbè, non importa. La trasmissione di informatica e... lo spazio di approfondimento informatico-tecnologico. Alza la voce, parla più vicino al lo microfono. Lo spazio di approfondimento informatico-tecnologico di Radio Onda d'Urto. Ogni mercoledì alle 12.40 cioè. Sulle nostre frequenze. Saluto anche ad Alessandro. Ciao a tutti, oppure in replica sul nostro sito www.circola.net. E quindi grazie a Carlos che ce lo cura. Il sito. Eh sì, certo. Allora, la puntata di oggi sostanzialmente avremo un po' di aggiornamenti su varie vicende. Poi presenteremo Subverter, che non ho ancora io capito di che cosa si tratta, però non importa. Ce lo presenterà Alessandro. Ce lo Alessandro. E poi niente, vi ricordiamo il nostro indirizzo email, spazio @circolab.net. No, radio@circolab.net. radio@circolab.net e niente, via con la puntata, che come al solito presenteremo anche un brano musicale tratto dal grande repository di musica libera in licenza Creative Commons che si chiama yamendo.org. Bravo Marco. Cioè yamendo.com, yamendo.it, comunque yamendo.com o org va bene. Bravo Marco. Che bravo. Brutte bestie. Iniziamo con la vicenda di Italia.it, il simpatico sito di cui abbiamo avuto modo di parlare un paio di settimane fa. Il nostro mega portale nazionale. L'orgoglio dell'informatica italiana. L'orgoglio del turismo italiano. Quello che insomma avrebbe dovuto essere talmente bello che io adesso vi leggo l'inizio di una lettera. Sono con la presente a chiederti di intervenire e prontamente oscurare le pagine dedicate alla regione Veneto nel portale sul turismo italiano www.italia.it. Queste le parole della lettera del vicepresidente della giunta regionale del Veneto Luca Zaia, che le ha inviate al ministro Francesco Rutelli, responsabile delle politiche sul turismo. Sul turismo e dei beni culturali, che appunto in occasione della borsa sul turismo aveva presentato Italia.it. I motivi per contestare questo sito sono tantissimi. Beh, probabilmente elencati, non, eccetera, non gli piaceva eccetera, il logo, eccetera. Forse gli piaceva il logo, che abbiamo capito che è la cosa che di meno piace a Marco. Ci sono delle cose carine, in particolare su quello che era il Veneto. Il vicepresidente della giunta regionale fa presente che ci sono degli errori e delle imprecisioni così grossolani e vistosi da considerarsi lesivi dell'immagine della nostra regione a livello nazionale e internazionale. Io mi ricordo che quando avevamo parlato di Italia.it dicevamo che vabbè, almeno i contenuti saranno stati corretti. Beh, quello, perché avevamo fatto la del prova mio paesello era giusto. Avevamo fatto la prova effettivamente su Ome e Castelmella, se non mi sbaglio, due ridenti cittadine della provincia di Brescia, che effettivamente riportavano correttamente l'indirizzo del municipio. Per quanto riguarda invece il Veneto, il link alla località balneare Cavallino Treporti rinvia alla provincia di Lecce. Il recapito telefonico dell'azienda di promozione turistica di Bibione è quello di un'azienda informatica trentina, e nella ricettività di questa zona compare un solo albergo su un totale di 87, mentre invece il numero di telefono per le informazioni turistiche di Caorle corrisponde a quello di un utente di Pramaggiore ai confini con il Friuli. Si tratta allo stato attuale di un portale per niente all'altezza del Veneto, che insomma, con quasi 60 milioni di presenze registrate nel 2006 e 12 miliardi di euro fatturati, è risultato essere una delle prime regioni turistiche d'Italia. Cioè, considerare insomma anche il ruolo di Venezia in tutta questa grande... No, Sì, sì, no, infatti delle mete turistiche maggiori, penso. Guardavi malissimo. Venezia in Veneto, sì. Del certo. Veneto, appunto. Come no? Perché mi guardavi come se Venezia fosse in Friuli Venezia. No, ero in adorazione della... No. No, vabbè, ne avevamo già parlato di questo portale, soprattutto del suo costo spropositato. Si parlava di 40 milioni di euro, 50 sì, milioni di euro. Sì, una cosa una del bazzecole, bazzecole. Decine bazzecole di milioni di euro. La cosa più divertente però ce l'ha fatta notare Alessandro via email. Ma perché stando a quanto era scritto nell'articolo di presentazione, insomma, di quelle cose che erano state dette anche da Rutelli, e per cui erano stati anche ripartiti i finanziamenti, una buona fetta dei finanziamenti sono andati a regioni, comuni e province che hanno fornito appunto queste informazioni. Per cui non si capisce. Il presidente della regione Veneto che si lamenta dei contenuti quando in realtà probabilmente i contenuti vengono dalla sua stessa regione o dai suoi stessi comuni, al di là del fatto che siano sbagliati e che siano grotteschi in alcuni casi, però vabbè, poi si sa, il presidente della regione Veneto chiaramente di schieramento opposto, quindi no, non si sarà fatto mancare l'occasione. Chiaramente le critiche sul portale ci sono e a questo punto ci sono anche sui contenuti, quindi critiche a chi ha diretto il lavoro, come il ministero, e critiche a chi ci ha buttato dentro i contenuti e poi si lamenta che sono sbagliati, come le regioni. Il classico pastrocchio all'italiana, Beh, diciamo. però ricordiamo che questo sito fondamentalmente cioè, è sbagliato, almeno secondo me, l'idea di progetto che nasce da una persona che va a inserire tutti questi dati. Ormai sono cose superate nel mondo di internet, adesso ci sono i progetti collaborativi dove sono le persone che inseriscono le cose e insomma. Sì, beh, poi in generale i progetti della pubblica amministrazione spesso e volentieri hanno, come avevamo già detto, dei finanziamenti che vengono spesi in toto durante la realizzazione e poi non è previsto il mantenimento. In questo caso era previsto un mantenimento, ma per quello che riguardava solo esclusivamente quello che riguardava il software, quindi i contenuti in realtà stavano di nuovo fissi e anche qua ci sono gli errori, boh, chissà chi li va a correggere. Le regioni vorranno di nuovo dei fondi per teoricamente per pagare il personale che dovrebbe stare dietro queste informazioni, poi in realtà per mangiarci sopra un po' tutti sostanzialmente è il senso con cui questo progetto viene a costare poi una cifra del genere. Passiamo a un'altra notizia, citiamo da Zeus News, il titolo è abbastanza chiaro: installare software privo di licenza non è reato. Finalmente un tribunale stabilisce chiaramente che cosa debba intendersi per illecito penale amministrativo. Infatti è stato assolto un imputato dall'accusa di aver illecitamente detenuto e installato software privo di licenza. In particolare, il tribunale ha rilevato che per integrare gli estremi del reato è necessario che la detenzione di copia contraffatta, duplicazione o installazione siano effettuate allo scopo di trarne profitto, mentre la semplice detenzione, mancando quindi lo scopo di lucro, configura soltanto un illecito amministrativo e quindi non penale. Questa di pura sana, sembra di. No, va bene. E appunto questa era la situazione di un imprenditore. Qui la Guardia di Finanza, in un contratto di controllo fiscale, aveva trovato alcuni CD contenenti dei software senza licenza e alcuni di questi appunto software erano stati installati sul computer di questo imprenditore che non riesco a trovare di dovera. Vabbè, niente. Beh, il tribunale è quello di Lanciano. Ah, ok, perfetto. La sentenza è stata emessa l'8 febbraio e come rilevano all'interno dell'articolo di Zeus News, anche perché molti si chiederanno ma com'è possibile fino all'altro giorno, ci hanno detto che insomma non c'era via di scampo, che il copyright per quanto riguarda il software era assolutamente vincolante, è diventato addirittura reato penale. Com'è possibile che un tribunale sancisca questa cosa? Innanzitutto bisogna far presente che è il primo grado di un tribunale, quindi si sa che ci vuole tutto l'iter giuridico perché una sentenza divenga in qualche modo legge. E in questo caso, stante questo tipo di sentenza, il meccanismo che si instaura è questo: il reato resta, cioè la duplicazione, il possesso, anche senza scopo di lucro, resta reato, ma senza Le conseguenze pena penali. prevista, cioè rimane un illecito senza pena, e si dice norma meramente ordinaria, così precisato. quindi diciamo che lo scenario è un po' strano, chiaramente crea confusione all'interno della normativa, però è interessante, vedremo, chiaramente questo è solo il primo grado di giudizio, per cui bisognerà vedere gli altri e l'eventuale sentenza della Cassazione, però staremo a vedere come prosegue. Andiamo a parlare ancora di censura per quanto riguarda, stavolta parliamo di un paese quasi europeo. Esatto, proprio in fase di decisione sul fatto di farla entrare o meno in Europa, la Turchia ha ben deciso di dimostrare appunto i muscoli e di iniziare un processo di censura nei confronti del famoso sito YouTube. In particolare hanno l'operatore di telecomunicazioni più importante del paese, Turk Telekom, è stato obbligato da un tribunale appunto a filtrare l'accesso al sito www.youtube.com, in particolare perché è stata sul sito YouTube sarebbero presenti dei video ingiuriosi nei confronti di Mustafa Kemal Atatürk. Dai, almeno Atatürk dovresti conoscerlo, Marco, però dai, riformatore che ha costruito la parte laica di quello che c'è in Turchia oggi, insomma. Lui? Ah, pensavo fosse il cugino che era famoso. E appunto, in particolare, sembra che siano stati a far arrabbiare il tribunale turco, arrabbiare tra virgolette. Siano stati dei video ingiuriosi appunto che dichiaravano questo Atatürk un gay o qualcosa del genere. E vabbè. Ed è per questo che stanno deciso per questo di... cosa scandalosa hanno... È un terribile insulto. Esatto, hanno appunto deciso di bloccare tutto YouTube, quindi qualche milione di video a tutto a una parte del popolo turco. Infatti quelli che non utilizzano l'operatore Turk Telekom possono ancora accedere a YouTube senza minimo problema. Ma quindi è un filtro che viene fatto sugli indirizzi IP, quindi con un proxy Beh, esattamente come viene fatto in Italia per i siti di scommessa esteri. C'è un grosso elenco emanato nel caso dell'Italia dal ministero, in questo caso è più semplice perché c'è un sito solo, quello di YouTube, che viene inserito all'interno dei siti non accessibili da parte dei provider, per cui comunque tu ti devi collegare attraverso un'azienda che ti fornisce la connessione. Se questa è obbligata a non darti la connessione per un sito, per un gruppo di siti, tu non ci arrivi. Ma a proposito di quella italiana per appunto le scommesse, non è uscito qualcosa di recente? No, è ancora come era un anno fa. Commissione europea che hanno detto che è illegale questa cosa che hanno fatto. Marco, sì. non vabbè, inventarti niente. Le cose così in trasmissione, cioè ti informi prima e al massimo vieni qua e ce le racconti con precisione. Dietro la lavagna. Ecco, adesso orecchie di asino, dai. Sto facendo una trasmissione con un branco di ignoranti. Ascoltiamoci il brano musicale, allora sempre preso da Yamendo, andiamoci a sentire Exit, il brano è Desperate, è uscito l'anno scorso, all'incirca verso maggio. Yeah. Andiamo adesso a parlare di un paio di news che riguardano Wikipedia, ovvero l'enciclopedia libera di cui spesso ci siamo occupati e che, insomma, secondo anche alcune ricerche rappresenta una affidabilità pari a quella della British Encyclopedia, cioè l'enciclopedia britannica, e ci sono dei dettagli. Vedo Marco sorridente che potrebbe aver sistemato un piccolo... No, non ha sistemato niente. E comunque stavamo parlando di Wikipedia, che è Wikipedia che appunto ha fatto un paio di notizie che sono decisamente interessanti quanto non curioso. La prima è il fatto che Wikipedia viene considerata una enciclopedia molto libera, cioè molto liberale. Quindi c'è stato un progetto messo in campo da alcune associazioni, da un'associazione clericale che si chiama Conservapedia e che insomma, cerca di contrastare gli articoli più liberali di Wikipedia. La cosa divertente è che ci sono proprio alcuni temi su questa Conservapedia, di cui ovviamente era l'unica pagina che non avevamo aperto in, qua sul nostro sito, quindi andiamo a vedere. Beh, in particolare le differenze grosse sono dal punto di vista, cioè parlavano delle pagine di Darwin, dell'evoluzionismo e infatti, quant'altro. Soprattutto quelle sull'aborto, su tutti i temi che purtroppo conosciamo bene per noi che stiamo in Italia e che riguardano soprattutto quelle che sono le questioni anche legate in qualche modo alla religione, e infatti non è un caso che questa Conservapedia è stata messa in piedi da persone che assolutamente si dichiarano conservatrici. Ci sono anche una serie di, diciamo così, di differenze che vengono segnalate proprio dagli stessi autori di Conservapedia, per esempio sull'aborto, che dicevamo prima. Secondo Conservapedia, la parola aborto, la voce sull'aborto in Wikipedia sembra una brochure dell'industria dell'aborto. Queste le parole che sono state usate. Wikipedia, infatti, secondo Conservapedia, nega e salta alcuni risultati scientifici che ci sono, alcune ricerche che ci sono state, eccetera. Comunque, insomma, per chi volesse curiosarci dentro e andare a vedere anche quali sono le differenze tra Conservapedia e Wikipedia, che io continuo a pronunciare Wikipedia, ma in realtà è Wikipedia, ovviamente la pronuncia corretta, se la trova su conservapedia.com, più che altro per allora anche di... Conservapedia? conservapedia.com come esempio da non utilizzare come, diciamo così, come riferimento per chi vuole approfondire un determinato argomento, è sicuramente Conservapedia, che dichiaratamente è conservatrice su molti temi, su tutti. L'altra notizia invece che riguarda sempre Wikipedia è su uno dei suoi autori. Si chiama SJ, o meglio questo era il suo pseudonimo, era segnalato come professore di teologia, nonché redattore e scrittore di una serie di articoli di approfondimento sul cattolicesimo e la religione. In realtà si trattava di un 24enne studente universitario del Kentucky. Il suo nome era Ryan Jordan e non ha mai chiaramente ottenuto nessun titolo accademico, né tantomeno insegnava in università, ma anzi ci andava a studiare. La cosa interessante è che appunto questo SJ ha editato, pubblicato e mantenuto numerosi lemmi chiaramente numerosi per quanto ne può mantenere una parte alla quantità di lemmi, in particolare quelli appunto riguardanti il cattolicesimo, questioni religiose. Infatti tutto quanto lui aveva andato poi in sito Wikipedia era tutto tratto dal volume Cattolicesimo per principianti. simpatico. Aveva comunque fatto tutta una serie di attività di editing dei contenuti. È stata una ricerca, come potremmo dirlo, da parte del The New Yorker, che ha svelato l'identità di questa persona. E insomma ha messo in crisi un po' le credenziali associate agli autori di Wikipedia. Tra l'altro la cosa interessante è che comunque i lemmi compilati o mantenuti da questo SJ in realtà erano perfettamente coerenti e corretti, semplicemente era il... come dire, la referenza della persona che in teoria doveva dare un valore aggiunto. E la risposta di Jimmy Wales, patron, potremmo chiamarlo così, della libera enciclopedia, è stata, innanzitutto ribadire la libera pubblicazione la necessità che ha Wikipedia comunque di sostenere insomma la fiducia rispetto a chi pubblica e a chi si dichiara avere certe credenziali. In un secondo momento poi ha dichiarato che Wikipedia controllerà, non si sa bene come, però controllerà maggiormente le credenziali degli editor, cioè di quelli che pubblicano e che sono fanno pubblicazioni tipo più costante. In particolare le controllerà in caso di diatribe o discussioni pesanti su determinati articoli, a quel punto potrà richiedere l'esibizione delle referenze da parte di una persona. Il punto è che all'interno di Wikipedia si è creato anche uno staff di persone che lavorano per una fondazione no profit che fa capo proprio a Jimbo Wales, e quindi probabilmente la cosa che qua ha creato più diatriba è il fatto che questo tizio SJ lavorasse proprio in Wikia, cioè in questa fondazione, che ovviamente avendo dei finanziatori tra i quali Amazon e altri big del web, probabilmente sono state questo tipo di pressioni proprio sul fatto che lui fosse uno che era stato assunto da Wikipedia a creare problemi. In realtà la pubblicazione gratuita e libera su Wikipedia è molto difficile che venga cancellato, perché snaturerebbe il senso stesso dell'enciclopedia. Push the button. If you think about it too much, you may stumble, trip up, fall on your face. E adesso sono proprio curioso di capire che cos'è questo Subverter, perché fino adesso però... Allora, intanto cominciamo a dire il sito, si chiama www.subverter.com. E dunque è un progetto che fa le scarpe a Flickr sostanzialmente, o meglio, Flickr, ne avevamo già parlato, è un sistema di pubblicazione. Non sono sicuro che ne avessimo già parlato. Sì, l'anno scorso quando era uscito il fenomeno Flickr. Vabbè, ma chi non lo conosce? Flickr è un modo per pubblicare immagini su internet. Tu hai il tuo account, metti un'immagine, ci assegni quello che si chiama un tag. Cioè una sorta di YouTube per immagini, insomma. Sì, infatti è venuto prima perché era più facile, perché è molto più semplice archiviare immagini che filmati. Partiamo dalle cose più note. Perché lui è arrivato dopo e quindi è noto lo stesso. È noto, ha una concezione di noto. Comunque, l'idea è quella di creare l'anno di Times, insomma. È una specie di video.libero.it, dai, mettiamolo così. Sì, esatto. Allora, Subverter tra l'altro ricalca anche la grafica di Flickr. La scimmiotta proprio completamente. La scimmiotta proprio volutamente. E dunque, vabbè, lo strumento è identico a Flickr, cioè pubblicazione immagini con tagging, che permette attraverso appunto questi tag parole che definiscono l'immagine anche di associare. Ad esempio, voi state guardando un'immagine di un utente, se all'interno dell'archivio lui ne trova altre con lo stesso tag o con un tag simile, ve le fa vedere vicino oppure vi dice vai a vedere altre cose simili. Esattamente come funziona Flickr, è quello che si chiama Web2 o social networking. Quindi ovvero... hai il tag cloud, più nuvoletta dei tag. La nuvoletta. Comunque vabbè, il lavoro di tutti insomma serve a navigare i contenuti in maniera più intelligente. La cosa interessante di questo progetto è che innanzitutto è sotto licenza Creative Commons e quindi anche i suoi contenuti, quindi sono liberamente utilizzabili a differenza di Flickr che ha delle licenze fatte ad hoc, diciamo, e comunque Flickr è il software che sta dietro al sistema e è protetto dal diritto d'autore. La seconda cosa interessante è il manifesto politico di questi personaggi che hanno costruito questo sito. Allora, Subverter è un sistema, a detta degli autori, per riprendersi, ricostruire i simboli, riappropriarsi dei simboli e delle parole che li definiscono, sottraendoli alla... a chi in qualche modo ne fa uno strumento poi di guadagno, come potrebbe essere Google, Flickr, YouTube o cose affini. È dedicato a attivisti, culture jam, è un po' difficile da tradurre, comunque chi tenta di fare una rielaborazione del conosciuto comune e collettivo. Il suo funzionamento è molto semplice: prendete un'immagine che faccia parte della cultura quotidiana, televisiva, che proviene dai giornali, dai media in generale o dalla vita quotidiana di tutti, associatele un termine, una parola, appunto un tag che serva a definirla e pubblicatela su Subverter. Il quantitativo di pubblicazioni e la rielaborazione collettiva di queste immagini produrrà nuovi significati che oggi non è possibile creare, visto il controllo da parte dei media di questi immaginari comuni. Questo è un po' riassunto, chiaramente, perché è un po' più lungo il loro manifesto politico. Al di là comunque degli obiettivi, la cosa interessante è che c'è un sostituto a Flickr. E in chiusura segnaliamo che è uscito per OpenOffice un plugin che permette di aprire, modificare e salvare i file OpenXML, ovvero il formato Open di Microsoft per quanto riguarda Word 2007. Questo plugin è stato prodotto dalla Novell, che di recente si è associata con la Microsoft per uno scambio reciproco di brevetti e di know-how. Sconsigliamo comunque l'utilizzo perché per quanto riguarda questo plugin le prove che sono state fatte non sono affatto convincenti, rimangono un sacco di problemi, pare che venga persa buona parte della formattazione, quindi direi che è assolutamente prematuro. Inoltre, in generale, anche se il formato è aperto, questo tipo di approccio da parte di Microsoft, quindi la produzione di un proprio formato aperto, è in realtà una tecnica per continuare a mantenere monopolio e fette di mercato. Esiste già un formato aperto che è l'ODF, proprio di OpenOffice, è consigliabile usare quello, così non c'è nessun problema di eventuali ricadute. Ricordiamo che per Microsoft Office è disponibile un plugin per comunque andare a leggersi i formati in ODF e anche salvarli e anche con quindi lavorare una maggiore efficacia rispetto a questo in ODF. siamo in chiusura di trasmissione, questa è la sigla. Vi ricordiamo il Circo Lab aperto eccezionalmente domani, anche sera. Domani sera, a partire dalle... dalle 20, 17.30 circa. È incredibile, cioè dalle 20... in circa. Che senso? Cioè dalle perché 20... Bruson la ecia. Dalle 20 e 17 circa, è stato interessante questa cosa. Dalle 20 e 17 circa. No, dalle 20, 17.30, 17.30, 20, vuoi che ti dica? Dillo giusto allora, 17, dalle 17.30 alle 20, giovedì sera, domani e... No, non è vero. Non hai capito, vabbè. No, non ho capito. Guardate sul dillo sito giusto, che è scritto allora. No, dillo. Dalle 20 o dalle 17? Dalle 20, dalle 20. Mentre invece domenica, a partire dalle 17.30 circa, per quanto riguarda il Circo Lab, che si trova in via Fratelli Bandiera 14C. Esatto, navigazione libera, aperitivi, socialità, musica. Invece, c'altro meno, spazio torna mercoledì prossimo alle 12.40 su frequenze di Radio Onda d'Urto. Ciao!